負けで。 お、事故の。ならあるよ。手を下げ。手を下げ。手を下げ。 Dicono, non è una radio, è un'altra radio. Come? Un'altra radio! Come? Un'altra radio! Un'altra radio. Un'altra radio. Un'altra radio Roma. Radio in bassa frequenza. Ed eccomi di nuovo nelle vostre cuffiette. Io sono DJ Cocot e questa è Nartra Radio Roma. Terzo podcast per DJ Cocot, ottavo podcast per Nartra Radio Roma. Sperando che avete scaricato tutti gli altri podcast e che li avete sparsi per il mondo e ve li siate ascoltati almeno 100-200 volte, partiamo con questo podcast. Ho contattato direttamente Bunny Wailer a Londra per farmi mandare una traccia che non era reperibile sul sito di www.coop.tv. La traccia in questione si chiama Burning Room e lui è Bunny Wailer. Che vi fa ascoltare la musica di cui non ne sapevate l'esistenza. Not dogs. E come avete potuto ascoltare, dopo il traccione di Bunny Wailer, Burning Room, lui, ricordiamoci, viene da Benevento, ma vive a Londra, ho subito attaccato un'altra traccia molto bella, molto interessante, con sonorità che si accostano molto ai miei gusti e ai gusti di un'altra Radio Roma, un altro artista, sempre dal sito di cool.tv, lui si chiama Nodux e viene dalla fantastica terra di Sardegna, e naturalmente il nome della traccia era GGG4, perciò Bunny Wailer, Nodux, un'altra Radio Roma continua con le sue sonorità un po' techno, un po' oscure. Continuiamo con Duff Desade e la sua U10. E ricordatevi, il link per il sito di Duff Desade lo trovate sul blog di un'altra Radio Roma, sulla colonna di destra, sotto The Sounds of un'altra Radio Roma. E questo è il sound di un'altra Radio Roma. Francesca, we have a problem. What? Is your son a bat? Thank you. E adesso, dopo di me, anche voi avete conosciuto quel pazzarello di Matteo Pastore. Con la sua traccia Number 4 ci ha introdotto nelle sue stravaganti sonorità che piacciono tanto a Nartra Radio Roma. Il viaggio è appena arrivato a metà, perciò comodi, cuffiette nelle orecchie, che il viaggio è lungo. Vegetable G è senz'altro Giorgio, o almeno così si dice. E per favore, non fermatevi a pensare che la G sia quella di Giorgio, perché non lo è. Pensate piuttosto al piacere sensoriale, che è più divertente. Luciano non è un chitarrista a caso, diciamo pure che non poteva non esserlo, soprattutto in questa storia. In un primo momento doveva essere sufficiente questo binomio e l'estrema facilità tra le immagini e i suoni. Ma noi diffidiamo della gente che non si evolve e smette di cercare. Gentaglia. Così Vegetable G diventa anche Maurizio, il batterista d'eccezione. Quello che non si cerca e si prova, ma arriva da sé, in tutto il suo carattere. Elettronica, e poi sempre meno, e sempre più wave, e poi sempre meno automi, fino ad ucciderli tutti e scivolare in bellezza, naturalmente splendido, annegare nel brodo primordiale. Qualcuno può forse negare che andare, oltrepassare sia soltanto inedito tornare? È genealogia degli esseri umani. Loro sono i Vegetable G. Questi erano i Vegetable G. Venivano da Monopoly e questa era la loro canzone Mary Like God dell'album Genealogy. In uscita il 12 ottobre 2009 il loro nuovo album chiamato Calvino e sarà presentato in una serie di concerti fino a marzo 2010 in giro per tutta l'Italia. Perciò, se ne volete sapere di più, andate sul loro myspace.com e documentatevi. Noi continuiamo con queste atmosfere un po' indie, un po' malinconiche, un po' tristi, ma sempre dolci. Il prossimo artista si fa chiamare Camomilla. Andiamo subito ad ascoltare due brani, il primo Dimenticarmi di te e il secondo Charlotte. Buon ascolto e sempre Nartra Radio Roma, Roma, Roma, Roma. Prima o poi ci tornerò sul letto di Charlotte, tra coccole, coperte, tazze, latte e mandorla. Prima o poi ci ritornerò su quel letto di Charlotte, nascosti da borsette un po' la moda, la maglietta te la sfili apposta per me. E non sa quanti pugni che peggio di una riscia in corso como. E non sa quante sbelle ma rovesci di buio e notte, vabbè, che poi notte sei te. Prima o poi ci tornerò su quel letto di Charlotte, t'ho incontrata alla sua festa scema, guarda che lo sai, prima o poi ti ricorderai, lo so che sono uno fra i tanti, avevo sciarpe e sigaretta, ero il tipo con la faccia triste. Che mi dai lo sai e non lo sai, non fai capirai, credo mai. Sono le 10, amore, dai che andiamo a fare colazione, da qui l'uomo si fa presto con il 12 senpai. Un bacio me lo dai, è un po' di nebbia sul cappotto, dalle colonne in San Lorenzo, i punk stanno accendendo il fuoco. Ma lo sai che quando sto con te si vedono le stelle sul soffitto, amore, non mi fa più male la testa. E chissà quante volte te lo dice il tuo ragazzo, l'altro tipo stronzo che hai incontrato alla festa. Adesso con lui, dove te ne andrai? Credo da Zanagra. Dopo se non ce la ricordi le messaggerie, quanta fame che mi fa. Per il panzerotto di lunedì c'è troppa coda, si sa. Facciamo un frullato da via, quella in corso Buenos Aires. E le leccherai le labbra sporche di fragola e di panna. E ti leccherai le labbra sporche di fragola e di panna, ma soprattutto sporche di te. Quanto ridevi stamattina. Senza. Ed ora Luca Tosh con la sua Seattle. Here I am in Seattle, all your hand and you walk me around the city, show me finger are just pretty. Up and down the hill, through the sky and sea, in the marketplace where the color are so vivid. Here I am in Seattle, hand in hand with you. Here I am in Seattle, standing now with you in Seattle. Up and down the hill, through the sky and sea, in the marketplace where the color are so vivid. Here I am in Seattle, and in and with you. Here I am in Seattle, and in and with you in Seattle. With you, and in and with you, and in and with you. E dopo i malinconici Camomilla e Luca Tosh, passiamo ad un altro genere che io adoro particolarmente. Loro sono un gruppo di Legnago, si chiamano i Summer Light, e li ho scoperti qui su Cube. E devo dire la verità, li adoro particolarmente. Il gruppo nasce verso la fine del 2008, quando Carlo Polo, ex chitarrista degli Oversonic, dopo mesi di attese forzate e insoddisfazioni, decide di creare una band e sperimentare musica nuova, e così mette su un annuncio. Il primo a rispondere è il chitarrista Leonardo Lucchese. Dopo ricerche di bassisti e batteristi, al duo si unisce il bassista Francesco Danilo Felis, vecchio amico d'infanzia di Carlo ed ex bassista dei Luiding. Dopo qualche prova, in tre, finalmente il 6 gennaio entra nella band il batterista Domenico Carnevale, conosciuto anche come Drum in Band Jazz. Il 14 gennaio la band è tornata tra le menti, dopo che il Leo ha dovuto momentaneamente lasciare a causa di problemi di lavoro. Il 2 maggio la band ha registrato al Dirty Sound Studio di Anjari il suo primo demo, intitolato Somber Light. Loro sono i Somber Light, questa è Sarah Red, e godeteveli se vi piacciono queste sonorità. Noise. Solo su un'altra Roma. Ed eccoci qui, arrivati alla fine. Dopo Summer Light con Sarah Red, voglio ringraziare prima di tutto tutti gli artisti che hanno partecipato a questo mio terzo podcast, ottavo per Narta Radio Roma, partendo da Bunny Wailer fino ad arrivare appunto ai Summer Light, a Nodux, Luca Tosh, Camomilla e chi più ne ha, più ne metta. Soprattutto per avermi fatto conoscere nuova musica e per avervela fatta ascoltare anche a voi. Spero che andiate a commentare le loro musiche sui vari siti che vi ho detto, ma soprattutto su www.cube.tv. Ed ora, per voi, ultimo pezzo dei miei adorati Anima di Legno. Li avete già sentiti? Ma questo pezzo ancora no. Loro sono Anima di Legno e questa è Ibrido, solo su Nartra Radio Roma! Radio Nartra Radio Roma.